Nerd Show numero 2. Benvenuti a tutti da Francesco, Nerd Show numero 2 e non Nerdcast, quindi un altro episodio, diciamo, extra dei podcast che seguono il finale di Nerdcast. Questa volta parliamo della serie di Mega Man X, capitoli relativi soltanto al Super Nintendo. Ne riparliamo meglio però dopo la primissima soundtrack proveniente proprio da Mega Man X, che si chiama Prologue Stage, Super Rocchettara, e ci sentiamo tra poco. Prologue Stage, breve ma intensissima, proveniente proprio dal primo capitolo di Mega Man X. Dunque, è il 1993, Keiji Inafune, producer anchor di Dead Rising e Onimusha, crea appunto il primo capitolo di Mega Man X. Arriveranno poi fino ad 8 capitoli, appunto l'ultimo è Mega Man X 8 per PlayStation 2, per ora siamo fermi, insomma, sembra che non continui la serie. Dunque Mega Man X esce però appunto nel 93, il primissimo solo su Super Nintendo. Stessa cosa poi per i seguiti, non tutti i seguiti, soltanto l'X2 e l'X3. E appunto in questa prima parte della saga, diciamo, di Mega Man X, parleremo in questa puntata. Le altre magari le rilasciamo alle altre puntate, perché sennò avrei preso tipo 2 ore per parlare dell'intera serie. Dunque, il primo Mega Man X ovviamente a molti riportava alla mente la serie di Mega Man, quella originale, quella diciamo senza una grafica fin troppo rifinita, no, la primissima serie di Mega Man, e molti ancora fanno abbastanza confusione quando ci riferiamo a una delle due saghe, perché insomma la differenza sta semplicemente in quella X nel nome. Quindi ovviamente bisogna fare la distinzione fra la serie classica di Mega Man e diciamo la serie parallela, che poi serie parallele ce ne sono infinite, però diciamo una delle più famose, se non proprio la più famosa, è questa di Mega Man X. Le differenze appunto con la serie originale sono disparate, sono tantissime, ovviamente una grafica migliore, essendo comunque un gioco per Super Nintendo, che ovviamente aveva delle capacità migliori rispetto al solo Nintendo. E oltre a questo, diciamo che le varie differenze stavano magari anche nel gameplay, ovviamente, perché diciamo il gameplay dei vari Mega Man X è un gameplay, possiamo dire, più libero, nel senso che è meno arcade, ecco, è meno arcade, ci sono diciamo più cose meno classiche, nel senso che il Mega Man, diciamo, classico si riferisce un po' alle azioni normali dei giochi, tra virgolette, vecchi, cioè sparare e saltare. In Mega Man X invece, oltre a sparare e a saltare, bisogna usare anche diciamo dei comandi speciali come velocità, eccetera, insomma sarebbero molti. Appunto, vi riferisce dalla serie originale. La storia è comunque rapportata alla serie originale, poiché la storia di Mega Man X parte approssimativamente 100 anni dopo gli sviluppi della serie classica di Mega Man. Al posto del Dottor Wily, che ricorre in tutti i 10 Mega Man classici, abbiamo qua invece Sigma, che è appunto il Dottor Wily della serie X, che ricorre appunto in tutti i Mega Man e nel boss finale. Appunto, diciamo, la storia brevemente riguarda il ritrovamento di Mega Man da parte del Dottor Kane, che appunto ritrovandolo crea poi quelli che vengono chiamati Reploids. Da qui diciamo si avranno due fazioni, fazioni dei Mavericks, cioè, ovvero i boss che in ogni episodio bisognerà sconfiggere, e i Mavericks Hunter, di cui appunto fanno parte X e Zero, che è in un certo senso il simbolo proprio della serie X che diciamo tutti i fan conoscono. Oltre questo, diciamo che anche il metodo di diciamo di divisione dei livelli è pressoché uguale a quello di Mega Man della serie classica. Appunto, le uniche differenze sono soltanto, o meglio, soprattutto la grafica è un tipo di gameplay sicuramente migliore, o comunque migliorato, più facile. Proseguendo con le soundtrack, sempre partendo da Mega Man X, il primo capitolo, abbiamo una delle soundtrack secondo me migliori. Lo dico sinceramente, fa parte della stage di Storm Eagle, e godetela, ci sentiamo dopo. Storm Eagle Stage da Mega Man X, meravigliosa. Dunque, Mega Man X è uscito nel 1993, nel 1994 Capcom non si fa aspettare e abbiamo subito il seguito. Mega Man X il primo fa un grande successo, esce dunque Mega Man X 2. Allora, come i fan di Mega Man sapranno, diciamo che o chiunque abbia giocato un Mega Man dopo l'altro, almeno due Mega Man, comunque saprà che le differenze tra i vari Mega Man sono davvero poche. Le uniche differenze che si trovano sono tra le varie serie, come detto prima. Appunto, le differenze tra Mega Man X2 e Mega Man X1 sono, diciamo, poche, davvero poche. E diciamo che al tempo la critica maggiore che venne fatta a Mega Man X2 è proprio questa, diciamo, il fatto di non innovare, soltanto sfornare un capitolo nuovo ogni anno. Che secondo me, alla fine, non è una brutta idea se il risultato è quello che appunto rappresenta Mega Man X2. A parte che secondo me il secondo capitolo della serie X è probabilmente, no, probabilmente no, però sicuramente uno dei più difficili dell'intera serie di Mega Man, soprattutto verso la fine, e diciamo richiede secondo me una maggiore skill in generale. Bisogna essere dei giocatori veri e propri di Mega Man X per poterlo finire senza utilizzare qualche aiutino, diciamo. E diciamo che comunque la storia per quanto riguarda la serie X è forse, anzi è probabilmente molto più curata rispetto alla serie originale, anche se è comunque una storia abbastanza semplice. Appunto, la storia di Mega Man X2 riparte dal finale di Mega Man X con appunto la sconfitta ovviamente falsa di Sigma e la morte diciamo provvisoria di Zero. Ovviamente ritorna Sigma come boss finale. Ci sono tre altri, diciamo, mini boss che si chiamano Serges, Agile e Violent, i quali i combattimenti secondo me appunto sono tra i più difficili della serie. Davvero sono pazzeschi. Diciamo che per quanto riguarda anche la grafica, comunque anche il gameplay, non ci sono delle vere e proprie modifiche. Per quanto riguarda anche diciamo il suono, la soundtrack rimane più o meno quella. Non ci sono particolari differenze anche in questo senso con il capitolo precedente. Appunto, andiamo ad ascoltarci subito una host proveniente da Mega Man X2 dallo stage di Morph Moth e buon ascolto. We'll be right back. Morph Moth Stage da Mega Man X 2. Bene, come avrete notato, questa seconda puntata di Nerd Show è molto più incentrata sulla soundtrack, diciamo, che sulla discussione dei giochi. Perché, come ho detto prima, diciamo, tra i vari capitoli di Mega Man non c'è molta differenza. In generale Mega Man è anche un gioco abbastanza semplice, per quanto secondo me uno assolutamente dei migliori mai fatti. Bene, continuiamo. Dopo Mega Man X2, appunto, come appunto un plot che si ripete sempre. Un anno dopo, nel 1995, Keiji Inafune e Capcom producono Mega Man X 3. Adesso, la precisazione che volevo fare prima è che in questa puntata di Nerd Show parlo soltanto dei primi tre Mega Man X, perché tutti e tre si riferiscono al Super Nintendo. Mentre a partire dal Mega Man X4 fino al Mega Man X6 si riferiscono a PlayStation 1 e anche qualcuno per Dreamcast, se non sbaglio. Mentre Mega Man X7 e 8 sono usciti esclusivamente per PlayStation 2 e credo anche per PC. Quindi probabilmente le prossime puntate di Nerd Show dedicate a Mega Man X saranno divise in questi blocchi, diciamo. Appunto, l'ultimo Mega Man X a uscire su Super Nintendo nel 95 è X3. Anche qua la maggiore critica che venne riferita a Mega Man X3 fu appunto quella di essere abbastanza, fin troppo anzi, simile al predecessore, quindi Mega Man X2, ma secondo me, personalmente, io non reputo che questa sia la cosa più, diciamo, la critica maggiore da rivolgere a Mega Man X3. Più che altro, secondo me, Mega Man X3 è non vorrei dire il peggiore di tutta la serie, secondo me, ma è, diciamo, regala meno momenti memorabili rispetto agli altri due. Sembra in un certo senso che i developers, non lo so, si fossero un po' seccati di riproporre sempre un po' lo stesso gioco. E un po' si nota questo, perché ci sono delle stanze nei livelli, stanze gigantesche senza motivo, diciamo, livelli che si finiscono molto facilmente. La difficoltà sì c'è, però rispetto alla difficoltà, la grande difficoltà che aveva Mega Man X2 è si è anche un po' affievolita. È un Mega Man un po' diverso dagli altri, in un certo senso, paradossalmente un po' diverso. Però ovviamente tutti i fan di Mega Man lo apprezzerebbero, lo apprezzeranno sicuramente. Per quanto riguarda la storia, anche qui pochi cambiamenti. Abbiamo sempre il ritorno di Sigma come boss finale, questa volta invece sotto forma di virus, che però non appare fino a quando appunto non arriviamo alla fine, perché si parla per tutto il tempo del Dottor Doppler, cioè uno scienziato che ha creato diciamo un esercito di robot con i quali appunto ha costituito i nuovi Mavericks, poi controllati in realtà da Sigma sotto forma di virus. Appunto, c'è il ritorno di Zero anche qui, che in Mega Man X2 invece era pressoché assente. E diciamo con la terza sconfitta consecutiva di Sigma si chiude questo capitolo, sempre riferito a alla serie X di Mega Man. Abbassiamo la base, poiché andiamo con la quarta traccia. Questa volta proviene da Mega Man X3, appunto quest'ultimo. La traccia proviene dallo stage di Volt Catfish, e godetevi. Catfish Stage da Mega Man X 3. Io forse non lo sto enfatizzando tantissimo come ho fatto forse con Final Fantasy 9, ma le musiche della serie Mega Man X, non soltanto dei primi tre, sono, secondo me, sono spettacolari, sono assolutamente tra le migliori di sempre. Secondo me il solo fatto di avere queste musiche all'interno di un gioco vale il prezzo di giocarselo tutto quanto, proprio tutto. E contate pure il fatto che sono solo 5 le soundtrack che vi propongo in questo episodio, mentre diciamo ce ne sarebbero tantissime altre che avrei voluto mettere, ma ho scelto in generale quelle che secondo me sono le migliori. Che non sono soltanto 5, però ecco, per non fare un podcast soltanto di musica. Bene, io appunto ne avrei un'altra, sempre probabilmente da Mega Man X 3. Spero di tornare quanto prima con la seconda parte riferita alla serie X di Mega Man, parlando di X4, X5, X6. Però vedremo. Intanto Nerdcast tornerà quanto prima, anche questo, e ci saranno paio di novità anche in Nerdcast. Sembra, spero che non sarò da solo finalmente. Spero che non sarò da solo, sarò accompagnato da un mio amico, Dario. Sempre se farà, manterrà le sue promesse, altrimenti mi dispiace, ma devo strozzarti se non lo fai, mi dispiace. E, appunto, Nerdcast torna quanto prima. Ci sono anche dei sviluppi per quanto riguarda un presuntissimo account di YouTube. Può darsi che mi sposti anche su YouTube, non chiudendo ovviamente i podcast, però aprendo un side project, diciamo. Però insomma è tutto da vedere. Infine, prima di lasciarvi con l'ultima host, vi ripeto i contatti del podcast, sia di Nerdcast ovviamente che di Nerd Show. L'email è nerdocast@gmail.com con una O tra nerd e cast. Sono su Twitter, se volete, www.twitter.com/nerdfaz, tutto attaccato. Il blog, dove magari potete lasciare anche un commentino, è nerdpodcast.blogspot.com. E vediamo, non lo so, c'è qualcosa? Diciamo che ovviamente se volete abbonarvi al feed lo trovate su iTunes e sulla pagina del blog. Che cos'altro devo dire? Non lo so, sicuramente devo dire qualcos'altro, ma non me lo ricordo al momento. Quindi io, senza assillarvi più di tanto, vi passo l'ultima soundtrack proveniente da Mega Man X3 di Blast Hornet e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!